Mario, sveglia, la guerra è finita. Ma c'è Antonè? Come, chi è? Antonello, dove sei oggi? In Platamona? Stai viaggiando, no? Ah, va bene, oggi niente male? E dunque a casa, al fresco? Una cortesia, un controllo. Come arriva nella tua zona? Satura rimane o abbastanza comprensibile? Guarda se va bene così. Perfetto. Guarda, così dovrebbe andar bene allora. Ah, va bene. Dunque alla fine a casa, riposo, dai, non si fa niente tutto il giorno. Traffico ce n'è in giro, sì. Santiago 5 è una radio di 3. Tonello. Mia, ti ringrazio del controllo, ti saluto, dai, buon divertimento. Tonello. Avanti. Buongiorno. Buongiorno anche a lei, è ben svegliato. E ha mai compreso chi sono, no? Ehi, ha già dopo compreso. E te sei combinente? Beh, no, al circolo mio fratello sono. Stavo prendendo la caffeina. E ci vuole, dai. Mi sembra una giornata abbastanza tranquilla e un pochettino noiosa. Mia, prendendo il caffè. Mia, signor Gio Maria, buongiorno Gio Maria. Buongiorno a te, buongiorno a Giuseppe. Come se la fa? Ciao Gio Maria, buongiorno Berto, chi ti risente? Ma ti sta troppo bene, al fresco, c'è una meraviglia. Come sei alla piccola palazzo? Campagna, Gio Maria. Sì, minoretta, mi la pongo un rifatto, oh, già cattone mio, non ho più voglia. Papà, lì si respira aria pura, invece che stare in città c'è troppo caldo, in campagna ci sta troppo bene. Tu si te ne frega. Apparenza, Gio Maria, tutta apparenza. Ehi, non me lo dire, no. Resistirà aria buona, dai. E in paese, sì. Se i motori sono spenti, sì. Quello sì. E niente di particolare. E oggi a casa? No, non sono a casa. Sono in campagna. Stiamo da 4 giorni qua. Ah, in campagna, ecco. Allora c'è l'antenna lì fissa in casa. Allora, già c'è 2 anni, 25 anni ci sarà quell'antenna, però sta funzionando sempre bene, dai. A Puglia, allora non fai altro che scenditi giù l'apparato direttamente da una parte all'altra. E il conice, cioè il conice è come si chiama, è un preamplificato del 600, quello da tavolo. Ah, già va bene allora, già sei ben attrezzato, sia da una parte che dall'altra ti fai sentire, già va bene. E cosa cucini oggi di buono? Ma di la verità, anguille arrosto e a secondo, poi non c'è, sotto, non c'è più cosa cucinare. E vedi poco gli anguilli arrosto, quello già fanno piacere ogni tanto, ora vedi, un film. Tanto per cambiare, capito? Questa casa l'ho già fatta. Già va bene, già va bene. Va bene, vi saluto Gio Maria, Giuseppe e Antonella, sicuramente che è in ascolto. Ci stiamo più tardi, dai, devo stemmare una cosettina in casa. Arrivato a proposito della sorella di la Parigi, Vittorio. Ancora purtroppo sto aspettando, perché dice che aveva ordinato dei pezzi per altri apparati e non so cosa doveva arrivare. E ancora il corriere No, non si è fatto vivo, dunque se tutto va bene alla settimana che viene, bisogna vedere un po' come coincidono le cose, è buono un mezzetto e lì fermo, Se dunque sto aspettando con trepidazione. L'importante è che l'esca perfetto, per cui almeno sei tranquillo per l'altro un po' di tempo. Quelli lì non muoiono mai. D'accordo, grazie, se devi fare una cosa. Buona domenica, buon pranzo, saluta in casa e senz'altro avremo occasione di risentirci. Ok, grazie alla chiacchieratina. Vai Giuseppe. Ciao Antonè, ci sentiamo. Allora, prima di chiudere, come ti sto arrivando lì al paese, a Ossi? Allora, qui in paese a Ossi arriva Santiago 5 e una radio di 4, leggermente basso ma pulita e comprensibile. No, già va bene, sta arrivando benissimo, va bene. Vi auguro una buona domenica, appetito, cucinare bene le anguille, ma non troppo, se non si seccano non sono buone. Fammi un pensiero da partire, un bicchierino in più di vino per me, dai Giomari, buon divertimento, ci sentiamo allora. Ok, d'accordo, senz'altro, ciao Antonè, ci sentiamo, riprendi di sé. Ciao Antonè, salutami la famiglia e tutti quanti, dai. Ok, dai, già ci sentiamo. Vabbè Giomari, tutto a posto, sì. E qua una meraviglia, tutto a posto, tranquillo, un gioiello. E ok. Va bene Giuseppe, dai che devo combinare qualche cosetta, comincio a fare un po' di fuoco, se no in la ragione. Ci sentiamo, buona giornata e stiamo bene, grazie, ci sentiamo una settimana in tanto, se Dio vuole, ok? Ciao Giuseppe. Ciao Giovanni, ciao, buon tutto, buona carica e saluto a me Corea, dai. Ok, dai, ciao.